Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Eccoci di nuovo insieme con una nuova puntata dal mondo della scuola, articolando il nostro percorso, toccando vari aspetti. Oggi un aspetto particolare, forse non molto evidenziato, ma credo significativo anche per l'esperienza del nostro interlocutore, che salutiamo, ritroviamo con piacere, il professor Lino Sartori. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Allora, con lei parliamo oggi di educazione nella dislessia. La dislessia è un fenomeno che tocca tante persone, chi ne è più, chi meno cosciente, insomma, noi ne parliamo proprio in quest'ottica educativa. Partirei anche dalla sua esperienza, che poi man mano verrà fuori, in che cosa consiste, da una definizione di dislessia. Sì, quando si parla di dislessia si intende innanzitutto un insieme di fenomeni. La dislessia non è una cosa sola, sono tante cose. Comunque l'idea comune a tutti questi fenomeni è la seguente. La dislessia è un disturbo nell'apprendimento. Questo disturbo può avere varie gradazioni, vari livelli, può essere più o meno grave. Comunque è una difficoltà, è un disturbo che in genere il bambino, il fanciullo vive con molta difficoltà e che gli crea molta difficoltà proprio, per esempio, nella fase scolastica. Sostanzialmente è come se questo bambino avesse dell'energia addosso che deve sprecare per fare cose che altri fanno senza sprecare tutta questa energia. Ecco. Quindi, ripeto, alla domanda che cos'è la dislessia, rispondo così, è un disturbo nella fase di apprendimento. Che poi si traduce in che forme, cioè come si fa a capire che è dislessia? Ecco, benissimo. Allora, quali sono gli effetti della dislessia? Sono questi. Il bambino legge con molta difficoltà e in genere scrive anche con molta difficoltà, scrive male, e ancora in terzo luogo fa molta molta fatica a fare i calcoli, per cui si usano tre parole che sono la dislessia per indicare la difficoltà di lettura, sono la disgrafia per indicare la difficoltà nello scrivere e la discalculia per indicare la difficoltà nel fare i calcoli. Ecco qui, la cosa adesso interessante è questa: quando ci si accorge se un bambino ha qualcuna di queste difficoltà, in genere la prima, cioè la difficoltà di lettura, ci si accorge quando i genitori o gli educatori, per esempio nella scuola dell'infanzia o nelle prime classi della scuola elementare, ponendo il bambino davanti a una figura da leggere, un disegno da leggere o alle prime sillabe da comporre, si rendono conto che il bambino ha delle difficoltà, va avanti in modo molto lento. Per esempio, che ne so, dopo la prima classe elementare, quando i bambini dovrebbero aver già individuato l'alfabeto maiuscolo, minuscolo, in stampatello, eccetera, ecco, le insegnanti si accorgono che invece il bambino, cosiddetto dislessico, fa molta difficoltà a individuare le lettere dell'alfabeto, le scambia l'una per l'altra. Quando poi il bambino è più avanti con l'età scolare, per esempio arriva in terza o in quarta elementare, di che cosa si rendono conto? Che nella fase di lettura non soltanto fa fatica a riconoscere le lettere dell'alfabeto, le vocali, le consonanti, ma addirittura quando compone le parole, cosa fa? Spesso taglia dei pezzi di parola, quindi taglia delle vocali, delle consonanti, oppure li capovolge, legge una vocale prima di un'altra, oppure cosa fa? Aggiunge dei pezzetti di parola, per cui vengono fuori delle parole molto strane, oppure ancora cosa fa? Legge, se una parola è lunga, soprattutto composta, che ne so, da tre o quattro sillabe, lui legge correttamente la prima e la seconda sillaba, però poi termina la parola con altre terminazioni, per cui anziché venire fuori, che ne so, la parola casa grande, viene fuori casa rotta. Ecco, appunto perché il bambino ha speso tutta la sua benzina, diciamo così, nell'individuare le prime sillabe e non gli rimane più forza per andare avanti. sentendo quello che diceva professor Sartori, mi vengono in mente delle cose, tra le tante, le miriadi che appaiono su Facebook ogni tanto, dei messaggi che sono scritti formalmente sbagliati. Non so, al posto della lettera A c'è un 4, che è una forma molto simile, al posto della lettera E c'è un 3, che è una forma molto simile, componendo delle frasi che in realtà il nostro cervello riesce effettivamente comunque a leggere, ed è una prova così dei giochi che si fanno: provate a leggere e il senso della frase riesce a correre comunque. Certo, insomma, la maestra di italiano ci correggerebbe questi, certo, questi errori. Dove c'è, qual è il limite per cui uno è considerato dislessico oppure considerato, diciamo, normale? Sì, beh, è chiaro, se si tratta di una cosa di fantasia o di creatività va tutto bene, deve essere ovviamente una cosa consapevole, cosciente. Se io vedo che ogni volta che, supponiamo, faccio scrivere al bambino casa, dopo la lettera C mi mette un 3 e questo lo ripete sempre, o mi mette un altro simbolo e lo ripete 2, 3, 4 volte, allora a me, insegnante, deve venire un legittimo sospetto. Non è il semplice errore di ortografia. Assolutamente, o non è nemmeno, che ne so, quel modo di scrivere che oggi usano i giovani nelle composizioni brevi, quando per dire per tutto ti mettono la per, al posto della per mettono la X. Il simbolo matematico. No, no. Ecco, lì appunto, qui il problema è delicatissimo degli insegnanti, ma io dico ancora prima dei genitori. Vedere quanto frequentemente il bambino cade in un certo tipo di cose sbagliate, ripetute. Ecco. Allora, la mia idea è la seguente, no? Quando è che ci si rende conto che il bambino può avere dei disturbi di carattere dislessico? Qui dipende dall'attenzione dei genitori in primo luogo e poi degli insegnanti, quindi l'importanza della scuola d'infanzia, per esempio. Ecco, l'attenzione che i genitori hanno, sanno portare nei riguardi del comportamento del bambino. Mi spiego con un esempio semplice. Se un genitore, quando il bambino ha già 3-4 anni, comincia a porgli sotto mano uno di quei bellissimi libricini che ci sono, con immagini fantasiose, libricini addirittura tridimensionali, con qualche parola scritta in grande, per esempio, non so, c'è il cagnolino Fido accanto alla cuccia, e comincio a scrivergli in stampatello maiuscolo cane. Bene, e io genitore comincio a leggere e magari con il dito mio prendo il ditino del bambino e gli faccio percorrere la C, la A e l'eccetera. Ecco. Allora, se io genitore comincio già in questa fase di età a fare questo tipo, chiamiamoli di giochi, il bambino viene favorito enormemente nel non incorrere in problemi di dislessia. Ma se invece io genitore comincio a fare queste cose quando il bambino ha 6 anni, magari è tardi affinché io possa dargli quelle correzioni, cioè mi accorgo quando il problema è già scoppiato. Certo, e ci vuole poi più tempo e più fatica per recuperare. Un po' di pausa e poi torniamo ad approfondire questo interessante tema. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Amarsi ancora nonostante tutto. Amarsi ancora se piango, se fini del mondo. Sanno cercare anche quello che non c'è ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, insieme al professor Lino Sartori, stiamo parlando di dislessia in chiave educativa. Abbiamo dato una prima definizione, un panorama anche dei sintomi, di come si manifesta. Veniamo, professor Sartori, alle cause, quelle finora individuate. Sì, ecco, finalmente gli studiosi a livello internazionale sono arrivati ad un'idea comune, cioè: poiché la dislessia, come dicevamo, è un fenomeno complesso che comporta anche varie parti della persona stessa che ne è affetta, non ha una causa unica. Le cause possono essere molteplici, il che vuol dire che finora non si è trovata la vera causa che spieghi tutto questo fenomeno. Volendo un po' riassumere i vari studi che sono stati fatti a livello internazionale, possiamo dire questo: ecco, ci sono finora tre filoni di cause relativi a questo problema. Alcune cause di tipo biologico, proprio relative al corpo, al modo in cui la mente è fatta. Ci sono delle cause di tipo neurologico e ci sono delle cause di tipo cognitivo. Adesso noi non ci addentriamo nessuno né di questi. Né io né lei siamo medici, quindi. Ecco. La cosa importante però è questa: gli studiosi ammettono che nessuna di queste cause, né da sole né nel loro insieme, riesce a spiegare il fenomeno dislessia. Per cui questo fenomeno, diciamo, è un po' un iceberg. Noi vediamo gli effetti, ma sotto che cosa si nasconda ancora non ci è chiaro. Io mi permetto di avanzare, però, come educatore, non come neurologo, né medico, né biologo, né psicologo, mi permetto di avanzare una spiegazione che è questa. Stanti i casi che sto seguendo da qualche anno, che riguardano bambini che vanno dalla quinta elementare fino ai ragazzi dei 16 anni, quindi seconda superiore, io ho riscontrato una costante, ovvero in tutte le persone che mi sono state presentate come persone colpite da dislessia, io ho incontrato una difficoltà di tipo relazionale. In altre parole, secondo me, oltre alle spiegazioni di carattere biologico, neurologico, eccetera, che la scienza sta individuando, sta comprendendo meglio, c'è da aggiungere anche un'altra spiegazione, e in questo sono in buona compagnia, diciamo, della cosiddetta scuola francese. Cioè, il problema della dislessia va affrontato anche in termini di relazioni, in termini molto semplici. Se un bambino in età molto piccola, quindi dai 3, 4, 5 anni, non ha goduto di tempo e di attenzioni che la madre e il padre gli hanno dedicato, è molto probabile che questo bambino possa sviluppare dei disturbi di carattere dislessico. Do un numero anche. Allora, la domanda che spesso si fa è questa: ma in percentuale quanti sono i bambini che sono affetti da questo disturbo? Ecco, qui non ci sono dati precisi. La forbice, come ormai si usa dire, è molto ampia. Si va da un 3% a un 17%. Quindi voi capite che statisticamente è poco attendibile. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il fenomeno colpisce i bambini più di quanto non si pensi. Prendiamo anche prudenzialmente la metà di questa forbice, no? Dal 3 al 17, che ne so, fermiamoci a un 8%. Ecco, voi immaginate una classe di 30 bambini, l'8% dei quali abbia un disturbo di dislessia, vuol dire che due o tre bambini in ogni classe hanno questo problema. Domanda: pensate alle insegnanti che devono gestire una scolaresca di 30 bambini di prima elementare di cui due o tre siano affetti da dislessia. È davvero un problema immane. È un disturbo sul quale poi ci sono anche le certificazioni da parte delle autorità mediche? Sì, sì, specialmente dal punto di vista neurologico ci sono interessanti centri, che adesso ovviamente per prudenza e discrezione non nomino, in Italia, che sono in grado di certificare dal punto di vista neurologico e cognitivo se un bambino è o non è dislessico. Però voglio dire, insomma, non serve nemmeno tanto la certificazione, perché quando una brava insegnante, penso soprattutto alle nostre maestre della scuola elementare, ma anche agli insegnanti della scuola dell'infanzia, quando una brava insegnante per un paio di mesi si è resa conto che un bambino, davanti alla difficoltà di fare, ecco, cambiamo esempio, di fare le tabelline, non riesce a fare la tabellina del 2 perché inciampa, proprio è questo il termine giusto, inciampa sempre sulle stesse difficoltà, beh, è una certificazione empirica, ma certa. Cito un esempio: a me è capitato un bambino di seconda media che era impossibilitato a fare la tabellina del 3. Lui arrivava correttamente fino al 18, però non riusciva a fare il passaggio dal 18 al 21. Non c'era verso di fargli capire che dal 18 si va al 21 e non al 20, come per lui sembrava cosa ovvia e naturale. Ora dico, quando ripetuto n volte il bambino cade sugli stessi, chiamiamoli, errori, beh, insomma, abbiamo la prova del 9, che siamo davanti, ecco, in questo caso, a una discalculia, si direbbe. Perché appunto non si riesce a ragionare, a fare i passi giusti con i numeri. Ecco, se mi consente, visto che lei fa questa osservazione, ecco, vorrei dire, da dove sta proprio la difficoltà di un bambino dislessico? Perché spesso si dice, si è detto nel passato, è uno svogliato, non è motivato, non si impegna, eccetera. Non ci arriva. Ecco, no? Esattamente, peggio ancora, il non ci arriva. No, il problema è un altro, ecco, mi spiego così, cerco almeno brevemente. Quando noi leggiamo qualunque testo, dobbiamo prima di tutto usare la vista, e davanti a una parola scritta cosa dice il nostro occhio, quindi la parte di cervello che guida l'occhio, ci dice: segui i punti o le linee che formano la parola. Ecco, la parola C, la lettera C, è formata in modo diverso dalla lettera A, penso alla C maiuscola e alla A maiuscola, no? Allora, quando io leggo CA, per esempio il K di cane, di casa, eccetera, cosa faccio? Il mio occhio ha una certa strada da seguire. Bene, cosa succede nel dislessico? Il dislessico fa fatica a seguire questa strada, cioè si perde per strada. È come se io dicessi: vado da Treviso a Valdobbiadene, ma mi perdo. Una volta vado per Cornuda, un'altra volta vado per Marostica. Ecco, alla fine posso anche arrivare, ma quanta fatica, bravo. E quindi qui entra il problema del tempo di cui il dislessico ha bisogno per arrivare ai risultati e per recuperare. Sì. Ultima pausa e poi torniamo insieme col professor Sartori. Dal mondo della scuola. Stop the hurricane, my name's Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando di dislessia ed educazione, il professor Sartori se ne sta occupando da alcuni anni, quanti ragazzi ha seguito finora indicativamente? Una decina di ragazzi, come dicevo prima, in età compresa fra la quinta elementare e la seconda superiore, ecco, quindi un po' tardi rispetto all'insorgenza dei primi sintomi. Sì, cause che abbiamo detto sono state individuate nei motivi biologici, neurologici, cognitivi, ma anche, e lei diceva appunto per esperienza, nella mancanza di relazioni. Sì. E proprio sulle relazioni credo poi incida questo disturbo, quindi vorrei che ci spiegasse per la sua esperienza quali sono gli effetti. Sì, ecco, quello che io ho visto è questo. Allora, quando si parla di relazioni dobbiamo intendere due tipi di relazioni in generale: le relazioni che una persona ha con se stessa e le relazioni che una persona ha con gli altri. Ecco, il ragazzo dislessico nei propri confronti matura quasi sempre sentimenti e atteggiamenti di disistima, di autoesclusione. Per esempio, ho notato, e questo me lo confermano anche molti insegnanti, che i ragazzi dislessici durante la pausa di ricreazione o durante la mensa, per esempio, tendono a isolarsi e soprattutto tendono a parlare con gli adulti più che con i loro coetanei. È abbastanza anomalo questo per un ragazzo che invece cerca i pari, no? Solitamente. Poi un altro atteggiamento che io ho riscontrato è questo: questi ragazzi si avvitano un po' su se stessi e quindi dal punto di vista poi dello svolgere un temino in classe sono ragazzi molto stringati, non sintetici, ma hanno poche idee. Non riescono a trovare idee da dire e quindi la domanda è questa: come facciamo a fare in modo che possano avere qualcosa da dire? Ecco, sembra che non abbiano nulla da dire. Quindi, sinteticamente, nei propri confronti il ragazzo matura un atteggiamento di scarsa autostima. Nei confronti degli altri, invece, dimostra due o tre tipi di atteggiamenti un po' diversi. Può divenire aggressivo, può divenire, per esempio, iperattivo. Quindi i ragazzi che vengono chiamati anche ipercinetici, so, quelli che una volta venivano chiamati come i ragazzi che non stanno mai fermi, no? Quindi anche indisciplinati, eccetera. Oppure, ecco, oltre a essere aggressivi o iperattivi, possono essere anche dipendenti nei confronti degli altri. Ecco, io ho sviluppato in modo particolare l'osservazione della dipendenza. Quando un bambino dislessico è dipendente nei confronti di un adulto, può esserlo in due modi: o perché diventa un suo parassita, cioè dice io farò solo quello che tu mi dirai, io non mi sforzo di pensare mai con la testa mia, eccetera, e qui vorrei osservare attenzione a non far usare troppo il computer o la calcolatrice ai bambini dislessici, ma poi casomai ci ritorneremo. Ma possono sviluppare anche un secondo atteggiamento nei confronti degli altri, non di dipendenza bensì di stima. Cioè, se il bambino dislessico si accorge che l'adulto che gli sta accanto, quindi il genitore, il docente, eccetera, è una persona autorevole, non autoritaria, autorevole, che sa le cose, di cui vede che si sta prendendo cura di lui, il bambino matura nei confronti di questo adulto una stima per cui comincia ad aprirsi. Sostanzialmente accade qualcosa di simile a quello che accade in fase di psicanalisi. Ecco, il bambino cosiddetto, in questo caso paziente ammalato, trasferisce nell'adulto di cui ha fiducia la sua chiusura e comincia ad aprirsi. E ho visto con questo metodo, nel giro di 7-8 mesi, bambini certificati dislessici, ma in maniera piuttosto acuta, che non scrivevano e non sapevano fare i calcoli, sono riusciti a scrivere esattamente come tutti gli altri, usando addirittura la stilografica, che è molto più difficile che non la biro, per la punta sfera, e riescono a fare tranquillamente le operazioni di algebra e geometria, almeno fino al programma di seconda media. Questo è quanto sto verificando, insomma. Ecco, e quindi l'intervento può durare, ci vuole del tempo, sì, ovviamente, no? Non sono mai interventi spot, non è la cura da fare con l'antibiotico per 8 giorni, no. Qui bisogna appunto costruire o ricostruire un sistema di relazione. Ecco, una cosa che però vorrei dire anche questa attenzione: relazione. La relazione non va mai ricostruita fra il bambino e, chiamiamolo, adulto esperto, educatore, no. Qui ci vogliono quattro figure. Ecco. Secondo me la relazione nella dislessia passa attraverso, ovviamente, questo lavoro sul bambino, in modo che lui cominci ad avere autofiducia. Secondariamente ci vuole un lavoro con la famiglia, è fondamentale, qui mi piacerebbe poter dire assai di più. Attenzione, la famiglia che dedica poco tempo al bambino, in un modo o nell'altro poi questo tempo lo paga. Occorre trovare spazi per spendere tempo con i bambini, io dico soprattutto nei primi 6 anni di vita. Qui c'è poco da dire, ma noi genitori dedichiamo del tempo ogni tanto, ma di alta qualità. Io faccio sempre questa immagine: serve poco dare una bistecca di ottima qualità una volta alla settimana. Il bambino ha bisogno di mangiare ogni giorno. Ecco, prima cosa, quindi dicevo, relazione con la famiglia, ci vuole una relazione con la scuola. Ecco, occorre che la scuola per il bambino, ma qui ci sono già delle normative interessanti, la autorizzi a formare dei piani educativi personalizzati che devono avere una caratteristica: dilatare i tempi. In altre parole, se un bambino non dislessico deve raggiungere certi risultati scolastici in un anno, al bambino dislessico devono essere lasciati tempi doppi. Quindi non posso bocciare il bambino perché alla fine di una classe non sa fare le operazioni. In lui il risultato lo devo guardare in tempo più avanzato, ecco. E poi le istituzioni. Occorre anche che la normativa su questo aspetto sia un pochino più aggiornata e tenga presente di più l'aspetto relazionale. Professor Sartori, noi lo ringraziamo per questo intervento, come sempre competente e appassionato. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e auguri a tutti. Grazie a voi per l'ascolto. È di Daici Regia, Mirko Cavallini Studio. Appuntamento fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.